Non va bene. Quanti attacchi c'ha? Sto usando l'M600 perché non va bene l'M4. Ma l'M600 dove lo usavi? Come timbrica, mi piaceva quando c'era il microfono originale, più di quello che stai usando adesso, lo sai. Sarò io difettoso, ma così ti dico, così lo sento, così ti dico. Ma sai che c'è un MB4, c'ho un che lo provo. Provo l'MB4, io lo sto usando anche in questo momento, come sempre, io uso sempre l'MB4, no? Tutti gli altri microfoni li ho messi dentro la scatola e non li vedo più da tanto tempo, perché ce li ho conservati e uso sempre questo, perché mi avevo fatto anche gli spezzoni, mi avevo fatto da una prolunga, per cui qualsiasi baracchino che ho sempre usato, usavo sempre l'MB4. Anche questo c'è uno spezzone, sempre filalato, così, no, come quello, baracchino stesso. Ho fatto una prolunga, tranquillo e pacifico, con due barilotti, e va più che bene. E anche io ce l'avevo in più 4, ce l'avevo in più 4, sì. Ma secondo me per questa frequenza è il numero uno, a livello di 50 euro però, poi se parliamo di microfoni che costano un sacco di soldi, come ad esempio il Tarner, lo Shure, eccetera, è tutto un altro discorso, ma a livello di 50 euro, 50, 60, 70 euro massimo, per me il numero uno è l'MB più 4, anche meglio del 5. Non va bene. Discorsa delta, però anche l'MB più 4 mi piace. Non va bene, non si adatta. E allora c'è l'attacco al contrario. K, guarda a vedere, questo qua è l'originale, il suo K. E non va bene anche questo. Lascio questo che è meglio, dai. Oh, yeah. Mi siete contento, mi. Ma pompando stai adesso. Come? Cosa stai pompando? Perché? Così. No. Antonio. Perché? Per quale motivo? No, perché è così? Se vuoi rispondere, rispondi. Rispondimi positivo. Era freddo, ho detto, ci avevi i calli. Fio occhio. Avanti. Ok, poi quando gli ha dato una spinta mi aveva fatto a fondo scala. È così infatti. E vabbè, prima eravate tutti e due con lo stesso segnale identico. Per cui poi lui ha dato una piccola sterzata e gli ha rubato a fondo scala. Come sempre. Comunque ripeto a tu mi dirai, ma eppure io ti dico che quel microfono normale mi piace più di quello che hai provato dopo. Cioè quello suo originale. Mi piace di più come timbrica. Poi per quanto riguarda l'MB4, maestro che non si adatta, fatti una stazione e fai l'adattamento, no? Per cui va bene, l'MB4 è eccezionale. E suppongo che anche per la tua voce l'MB4 vada più che bene. K, adesso c'ho quello normale. Quello normalissimo c'ho. Vabbè, facci contarvi c'ho sul tetto, non è che va quando anda che. E tutti siamo con la ciclotapi, esatto, chi è che non ha la ciclotapi? Qualcuno forse ha qualche antennino, ma di solito tutti quanti abbiamo la ciclotapi, chi più chi meno, tutti quanti abbiamo la ciclotapi, perlomeno queste poche persone che siamo rimaste, 5-6 persone, quante siamo rimaste già? 5-6, non di più. K, no, anch'io l'ho messa. Prima c'avevo un quarto quell'altra antenna, però cavolo ci vuole forte. Poi io ho cambiato con la 5 ottave. Certo che sì, perché no? Guarda che alle volte la mezz'onda, alle volte in città, io sto parlando di città solamente, può funzionare meglio anche di una 5 ottave. Dipende dal lobo di radiazione, quando c'è la più alto o più basso, dipende. È capitato, l'ho sentito, l'ho letto tante volte sui giornali di elettronica, che alle volte la mezz'onda può essere addirittura, sempre parlando di città, può arrivare anche con un segnale un pochino più forte della 5 ottavi. Beh, io ce l'avevo, la mia pompava, la mia andava anche fuori forte, si faceva sentire. Sì, appunto può succedere così, poi dipende da antenna a antenna, si sa, però diciamo che siccome ci interessa soprattutto anche di andare un pochino più lontano, con la 5 ottavi ci vai più lontano, no? Per cui, perché tanto ci sta, anche se arrivi leggermente più basso, ammettiamo che arrivi più basso, sei in città e ti sentono chiunque, non è quello il problema. Gianni, ieri ho sentito a Claudio, ho sentito Claudio di Mulos, mi ha incaricato di chiedere il numero di telefono suo, di farmelo dare da qualcuno che ce l'ha. Tu ce l'hai, Gianni, il numero di Claudio di Mulos? No, negativo, non ce l'ho. Ti chiudo il diritto, no, non ce l'ho. No. Non l'ho mai avuto quello di Gianni di Mulos. No, non ce l'ho. Ma adesso che ce l'ha Tino, che ce l'ha Gavino e ce l'ha qualche altro anche, chiedilo a loro, perché devo fare una telefonata, ma io il numero ce l'ho, quello vecchio di tanti anni fa, però non è più quello, l'hanno cambiato, per cui mi ha detto fatelo dare da qualcuno che ce l'ha anche Claudio di Sassari. Ma Claudio sono un anno e mezzo che non l'ho più sentito, che l'ho più sentito, e devo dire che ho anche voglia di sentirlo. Qualcuno ce l'avrà, prova a chiederlo se ce l'ha Antonello, Alice. Io non ce l'ho, non lo so. Forse hai ragione, forse ce l'ha proprio Alessio, ce l'ha. Forse ce l'ha anche Alessio, perché mi stava parlando che stavo parlando con lui e che parlano sempre. Sul canale 16 parlano quando c'è propagazione. Lui diciamo che si è fatto una specie di, no abbonamento, no, una specie di tessera che adesso mi stava attirando perché lo sentivo basso e non riuscivo a capire quello che diceva, però mettendo insieme quello che dicevo sono riuscito a estrapolare che lui fa parte di un club del continente, no? Che trasmette sempre sul canale 16 quando c'è propagazione, dice si mettono lì, si mettono e parla sempre con questi, e lui fa parte di questa associazione lì. Ma di notte? Quando c'è preparazione, di solito la notte, sì, di solito la notte. Canale 16, 27155. Poi potrebbe anche andare alle volte in banda laterale, però dice di solito parliamo qua in AM perché c'è uno che ha il baracchino e non ha la banda laterale, per cui dice di solito parliamo in AM. Ma detto, quando c'è propagazione solitamente ci colleghiamo anche con Bergamo eccetera, capito? È bello, ma di notte io non posso parlare, disturbo qua, non posso fare casino, e abito al condominio, quindi non posso ascoltare, quello sì. Ma che notte sono in cucina? Oh, c'è un apparecchio, prendi il cavo, ma non ti rompono le scatole nessuno, che è lontano da... Mi sposto 5 minuti da casa, c'è il parcheggio sopra, mi metto lì nella strada nuova, sono in alto e tutto. A voglia che anda, poi noi ci copiamo sempre con le antenne, sul tetto non c'è problema. Anch'io già da notte non ci parlo perché c'è la televisione qua nella stanza dove sono io, dunque mia moglie si guarda la televisione e non è che mi posso mettere a parlare, sono di disturba. E se lo faccio come fa Natalino, simpaticamente così, no? Che si sente più la televisione che la... che la mia modulazione. A proposito di Natalino, non l'ho più sentito, non sapete nulla se l'hanno operato, l'hanno ricoverato, non sapete nulla. No, io non l'ho più sentito, infatti l'ho anche chiamato, anche stamattina l'ho chiamato, ma non mi ha risposto, evidentemente non c'era. Ieri non c'era, infatti ieri non c'era, boh, non lo so, non l'ho più sentito. E allora probabilmente l'hanno ricoverato, boh. Infatti stavo pensando di telefonarle per vedere, per sapere se è stato ricoverato o meno, perché era questo. depressione di qualche giorno, perché dopo il pre-ricovero, io dopo aver fatto esperienza mi hanno chiamato dopo alcuni giorni, ma veramente alcuni giorni, 4-5 giorni, lui adesso non so quanti giorni è che ha fatto il pre-ricovero, e sicuramente l'hanno chiamato anche a lui. Una decina di giorni al massimo dopo il pre-ricovero, dopo che ti fanno fare tutte le analisi, dopo 10 giorni, perché se no quelle analisi che hai fatto non vanno più, le devi rifare. Appunto, per cui sicuramente stavo pensando quasi le faccio una telefonata, però quando mi è venuto in mente di telefonare era l'ora del pranzo, se lui è ricoverato a quell'ora sta pranzando, perché era intorno a mezzogiorno e mezzo, una cosa del genere, no? Perché se lui è ricoverato a quell'ora c'è il pranzo, per cui non era il caso di disturbarlo. E poi se l'hanno parato magari non si può manco muovere, ci avrai freddo attaccato. Vabbè, non so come sia la storia, io magari domani mattina lo chiamo, se risponde Concetta lo chiedo a lì. Macchina Talino. Sì. E cosa è successo? Sì, ma si doveva ricoverare per farsi l'operazione, non lo so poi se l'hanno ricoverato. Non sapevo nulla. Sì, c'ha diverse cose, c'ha anche questo problema alle vene, che non lo fanno camminare, gli fanno male. E non li manca mai. Non sapevo niente. Se lo chiamo adesso non va bene lo stesso, perché adesso è l'ora delle visite, per cui ci sarà la moglie, si è ricoverato adesso, in questo momento c'è la moglie, perché le visite sono dalle 7 alle 8. Io sono pratico ormai dell'ospedale, dopo anni di militanza lì, per cui so come funziona. Bisogna andare fuori da questi orari qua, fuori da mezzogiorno all'una, perché quella è l'ora del pranzo, oppure dalle 7 alle 8 è meglio non telefonare mai a quell'ora. Puoi telefonare, che so io, durante le altre ore, per cui solo così ti può rispondere, suppongo, senza essere disturbato lui, capito? Vabbè, già lo sentino domani mattina, magari provo a chiamarlo. Io l'avevo portato anzi a Urbia a ritirare gli esiti, perché per ritirare non rispediva, l'ho fatto l'esaminare e sono dovuto andare a Urbia per ritirare gli esiti. Sì, quello me l'aveva detto, l'avevi dato tu, una mano, un passaggio gli avevi dato tu. Me l'aveva detto, quello sì, quello già lo so. Vabbè, comunque, vabbè, interessante che adesso lo curino bene, e così almeno pure tranquillo e rientra a casa in tantissima pace. Vai tu. Cappa, mio figlio mi ha dato un microfono vecchio. Gli ammalati, per cui lui è meglio non telefonare nemmeno a quell'ora. Si deve telefonare intorno alle, o alle 11 oppure dopo, dopo l'una. Allora va bene. K, allora bisogna telefonarle. Gabriele, bel nome. Adesso quanti mesi ha adesso? Un annetto? Un anno e mezzo, ciao. Un anno e mezzo, capito? Dunque sta già camminando da solo, tranquillo, così. Sì, adesso mi imita pure. Stai molto attento a tu, stai molto attento al bambino, perché già lo sai, quando sono piccolini loro non capiscono niente, perché sono troppo piccoli e possono farsi male, non si sa mai. Ritira qualsiasi cosa di metallico, ossia glassa a capo, alle volte, dai bambini, è successo tante volte, trovano un qualcosa di sottile di metallico e lo infilano nelle prese vetriche. Ritira tutto, tu stai molto attento. Sì, già lo so, già lo so. Bellai, te lo vedrai in pochi anni già un giovanotto. E poi ti muovi sulla attenti. A me? Ah, buon cuore sulle attenti, se non cammina dritto. Così si dice, poi si sa, i genitori sono sempre più bravi con i figli, soprattutto quando cominciano ad essere grandetti, allora ti chiedono anche delle cose, tu la contenti perché è giusto che sia così, e tu ti dici, così, verrai, già ne hai tempo di fare esperienza tu. Rimasto vivo solo un nonno e basta. Ed stargli sempre più vicino, anche per non fargli pesare troppo la mancanza, soprattutto della madre e della nonna anche. Per cui quello devi essere tu a impegnarti al massimo proprio per non fargli mancare niente, soprattutto l'affetto, l'affetto dei parenti, eccetera. Va bene, dai, se sarà, la vita deve continuare. Sei stato sfortunato tu e anche tuo figlio, purtroppo è così, non c'è che dire, la fortuna è sempre dietro l'angolo, ci sono quelle persone più fortunate e quelle persone meno fortunate, a te ti è capitato quella un pochino peggiore, dai. Allora, no, non me ne andrà una bene, non me ne va una bene qua. Non è che ci sia molto da dire, in certe situazioni non è che ci sia molto da dire, casomai ti viene da dire e da agire sempre di volta in volta quando è il momento, tutti i giorni e tutte le sere, tutte le notti, quando appunto hai a che fare con lui, eccetera eccetera. E quello già ti viene spontaneo, quello che devi fare, il comportamento, quello che devi dire ti viene spontaneo, non so, sono parole difficili da trovare, come fai ad immedesimarti nella sfortuna? Uno non si può immedesimare nella sfortuna, deve solo continuare a vivere e cercare di fargli fare una vita migliore possibile al bambino, perché lui purtroppo è in tenera età e ha bisogno dell'affetto materno che purtroppo non ha. Qua ultimamente è successo di tutto, no? non è solo il problema del bambino, no? tanti problemi qua. Guarda, te lo dico chiaramente, guarda, è perché Gabriele che se no Gnocchi verrà abbigliati via una pittura ai parassi per tutto quello che è successo qua, veramente, perché non è possibile. Cioè, ma perché io ho tutte, cioè, sembra che ci sia una comunica in questa casa di casa, perché non è possibile. Purtroppo è così, te l'ho detto, te lo ripeto, ci sono dei momenti fortunati e belli nella vita e ci sono altri momenti un pochino più tristi e meno fortunati, per cui non è quello, la vita deve sempre continuare, poi tutte le altre idee le devi mettere nel cassetto e conservarle bene senza mai usarle, per cui no, il discorso è sempre questo. La vita continua, tu sei giovane, il bambino è in tenerissima età, per cui soprattutto per lui devi essere sereno, tranquillo e non fargli pesare la mancanza di niente. Lo so, hai ragione, però capo, c'è una persona che non c'è più in questa casa, era molto molto molto importante, purtroppo anche io devo andare da qualcuno perché non sto bene in salute neanche più, sto cominciando ad accusare colpi, no? Non so, da quando non c'è più lei, no, io sto cominciando ad accusare colpi perché c'è troppi piaceri, anche uno oggi, vabbè, non ne voglio parlarne, troppe cose, troppi dispiaceri, troppe. Troppo. Ok, va bene, abbiamo discorso, così almeno ti rasserini e no, non c'è problema. Sì, e beh già, e allora, cosa mi racconti? Io fra alcuni minuti ve devo lasciare perché devo fare la terapia. Gianni? Sì, anche io fra poco devo uscire col cane, dai. Tu quando vuoi passa a casa, non c'è problema, glielo sai, per me tu sei come un figlio, perché sono uscito con te da quando eri piccolo, quindi ti conosco da piccolino. Quando tu hai problemi vieni a casa, ne parliamo, già si risolvono, ecco, e non ti preoccupare. Osservone, adesso sto uscendo con 5 watt, anche di meno. No, già. Te lo dico chiaramente, guarda, c'è da abbigliarsi ai parassi veramente, perché no, non è perché, ma perché tutti a me, no? Poi cose senza senso. Oh, veramente, no, non ve la posso più io di continuare così, no. Non so che dire, non so veramente che dire, no, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, guarda. Non andava una radio, ma io cosa ancora cazzo di un vatto di mare, mamma lo tempo, no, non riesco a capire. Tanto, se vuoi parlarne vieni a casa, non c'è problema, te l'ho detto. Io già lo sai che sono solo a casa, quindi quando vuoi passa, non c'è problema. Speriamo un caffè e parliamo, dai. Ok. Ok. Allora, passerò questi giorni, là. Passerò, da. E non ti deprimere. Ma sai qual è il mio motto? No, cadura senza paura. Bisogna andare avanti, c'è ragione Giulia. Lo so, però non so più cosa fare io, veramente non anda una vera, non anda una vera, no, non lo so, non so proprio cosa dire, cazzate, boh, no, cioè cazzo, cose che non devono succedere succedono, no, non lo so, no, non so più a che santo lo invocare veramente. Purtroppo è così, se può vincolarti sai cosa puoi pensare, devi pensare che c'è sempre nella vita moltissima gente che sta molto ma molto peggio di te, per cui nonostante tutto la vita va avanti e la voglia di vivere, ci deve essere sempre la voglia di vivere, poi per il resto la sfortuna si può anche combattere, si sa, un giorno bene, un giorno male si tira avanti lo stesso, per cui tu devi pensare che nella vita c'è qualcuno che sta veramente male, sia di salute che in qualsiasi altro tipo di situazione familiare, per cui no, non ti devi abbattere, non ti devi deprimere, nella maniera più assoluta, vai a tu. Io non ho capito niente se sia peggio o se sia meglio o cosa con chi marazzo si è, no? Cioè, boh, molte volte anche io mi metto a fare cose che non boh, senza capo proprio, cioè purtroppo devo andare a qualche psicologo, no? Da quando non c'è più lei sono peggiorato, cioè prima ero tranquillo. Adesso non sono più una persona tranquilla, no. E lo devo dire chiaramente, non sono più una persona tranquilla. Nel senso che boh, ne combino qualche una. Non col bambino, perché il bambino non sa niente. Io da solo, cioè, no. Non c'ho più la testa di una volta, non so. Infatti sono molto, qualche volta anche, che mi distrae un pochettino il lavoro, però quando mi gira la rotella, cioè tipo l'altro giorno, ho preso quel cazzo di coso dove c'erano le meccaniche della base, mi ho fatto girare le palle, sto qua. Prima magari lasciavo più perdere, adesso sono scattato di brutto. Le meccaniche della batteria, sai come le ho alzate? Come che se fosse un pezzo di carta, cioè ho questi atti di nervoso, cioè, e mi devo controllare perché quando mi fanno girare le palle divento anche molto aggressivo, è veramente un casino. Ricordati che purtroppo le sofferenze nella vita ci sono sempre state. In quei casi lì l'uomo deve essere cercare di essere forte, forte, cercare di rimediare senza mai abbattersi, ci mancherebbe altro. Quello è importantissimo per il prosieguo della vita, soprattutto pensando che hai un bambino piccolino che ha bisogno di te. Tu immaginati se un domani magari disgraziatamente speriamo che succeda quello tra 200 anni, se gli manchi tu questo bambino come finirebbe e dove andrebbe, chi lo prenderebbe? Sono cose queste da pensare, per cui devi essere forte, più forte, più forte ancora di quello che lo sei sempre stato, altro, per cui no, non ti deprimere, non ti abbattere, vai avanti lo stesso, tranquillamente, lavora, quando c'è da godere godi, quando c'è da soffrire soffri, no? La vita purtroppo è quella, altro, no? Non puoi cambiarla, nessuno la può cambiare, guarda, il destino è così. Vai Gianni, facciamogli fare un po' di pausa, Antonio, vai già. L'unico appiglio che hai è tuo figlio, per cui devi pensare che lo devi portare avanti, farlo crescere, che lui conta su di te, e quindi devi fare di tutto per farlo diventare una persona, diciamo, felice, responsabile, educata. Devi contare su di lui e lui si conta su di te, è quello. Devi pensare a quello, che c'hai un figlio. Poi non devi pensare ad altro, le cose negative lasciare perdere, certo ti va a ammazzare già di lunga e basta. No, è che la famiglia, io sono sicuro di coglio che stava prendendo un pochettino, il gioco di me si stava prendendo. Mi sto tirando su quel fatto lì. tranquilli e più felici da questo mondo, può capitare la stessa cosa che è capitata a te, non c'è da meravigliarsi, per cui, ma solo per quello, io voglio dire, l'uomo si vede proprio quando ci sono le grosse difficoltà, si vede in quel momento lì, poi tutto il resto non deve, perché intanto se ti deprimi non riesci a uscirne fuori, mentre invece piano piano, con sacrificio e con la costanza e soprattutto con la fede, devi riuscire a toglierti dagli impicci e a risolvere il problema, che per te capisco benissimo che è un problema grandissimo. Purtroppo è così, per cui cerca di essere forte, non solo per te, ma soprattutto per tuo figlio, per cui tranquillo, non, come ha detto Gianni, potresti anche fare così, vai dal tuo dottore e ti fai fare un'impegnativa per magari andare da un psicologo se proprio è necessario farlo, non perché sei pazzo, sia ben chiaro, non è per quello che ti sto consigliando questo, perché può aiutarti moltissimo per tutti i problemi che hai, tutto lì. Avevo la mia famiglia, tranquillo. Ma che cavolo ho fatto io di male? Io ancora non sono riuscito a capire. Lo sappiamo che non hai fatto niente di male, è stato il tuo destino che ti ha tradito al momento. Per cui fin quando non si sistemano le cose, capisco che ci sarà da soffrire, però ripeto, devi essere solo tu, puoi uscirne, solo tu, con la tua forza di volontà e con la tua costanza, senza stare lì a deprimerti più di tanto, perché intanto più ti deprimi e peggio sarà. Per cui cerca di avere la forza e l'animo per andare avanti nel migliore modo possibile. Magari lo so, anche con sofferenze, questo sì, è vero, in tutti i sensi, però è quello che serve, per poter rimediare la situazione. Tutto lì, vai Gianni. Ricordati che dopo la tempesta viene anche il sole, devi sempre sperare e andare avanti. Purtroppo ci sono i momenti bui, ma bisogna saperli superare, anche perché tuo figlio ha bisogno di te. E se non ci sei tu, cosa fa questo bambino? Ah, Campillo, quando lui passa a casa ne parliamo, lo sai che io a te ti conosco da bambino piccolo, non ti conosco adesso, per cui frequentavi dove c'eravamo lui, non sai dove facevo servizio ambulanza, tuo padre ci portava sempre, quindi ti conosco da piccolino, a te, a Monica, tutti e due conosco da piccoli. Però sono troppo. Io la verità non sto capendo più niente, no? Giustissime, tu devi essere forte per tuo figlio ora, capito? Non dare un'altra disperazione più grossa per un domani per tuo figlio, quindi giusto quello che ha detto Giulio, lo vedo, condivido mille per mille, vai dal tuo dottore, ti prendi anche un mese di malattia, vai da un psicologo e ti mette in retta via, nel senso che non devi fare questi scatti con i colleghi di lavoro, cioè, perché poi puoi perdere anche il lavoro, ti possono denunciare un casino, e non è peggio, scusa. Devi essere forte con te stesso, non sei nel primo e nell'ultimo in questa situazione, ce ne sono anche peggio di te, e io, anche mia sorella è morta giovane, ma pure, non so, dispiace, vabbè, quella è tua moglie, quello che vuoi, è quello che è morto il figlio, mia cognata è morta il figlio, c'ha 44 anni, e io, adesso dimmi tu, e mi sono di Natale, sono cose che succedono, purtroppo il destino è quello, è un destino carogna, però bisogna darsi forza e di animo, essere più forte di te stesso. stesso, ti devi concentrare che è un figlio, e tu, se vuoi bene tuo figlio, devi essere forte in tuo sesso e portalo avanti, essere poi orgoglioso, lo so, dispiace a tutti quanti, a te di più perché è la tua moglie, però ti deve fare forza, Antonio, è questo che devi fare, capito? Lo so, hai ragione tu, hai ragione. Troppo. È una situazione un po' particolare, una situazione particolare. Non tocca nulla, Gabriele. Dai, riprendi Antonio. Kappa, dai. prossime. Avanti Tony. Ecco, ciao Giulio, buona terapia, ciao Tony, ci sentiamo. Alle prossime, avanti Giacomo. Ciao, ciao Giulio, ciao Tonino, dai che non ti ho salutato poco fa perché sei entrato così e non ho fatto tempo a salutarti. Ciao Giulio, dai, grazie per il QSO e niente, dai. Riprendi tu, io sono andato a portare giù il cane, dai. Vi saluto, mi dispiace lasciare andare così, però devo andare giù perché questo qui sta già lamentando. Vai tranquillo, non c'è problema. Ciao, ciao, ciao. Come vai? Qualcuno non sta uscendo. Qualcuno non sta uscendo. Ciao Gianni, se mi stai ascoltando, alle prossime. Ciao Antonio e ciao Tonino. Grazie a voi per la chiacchierata e a tu. Tieni duro Antu, alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo Giulio. Forse Tonino non sta uscendo, avanti. Non sono uscito poco fa, vabbè, ho detto che qualche giorno, dai. Ci vediamo Antonio anche con Gianni, così ci mangiamo un bel gelatone, anche se Gianni non lo può mangiare, te lo facciamo mangiare a forza. Ciao di nuovo Giulio, buona terapia, ci sentiamo, avanti già. Ciao, ciao Tonino, alle prossime. Forse poc'anzi non mi hai sentito perché c'era la tua portante che non c'era la radio. Ci sentiamo, ciao Tonino, ciao Antonio, ciao Gianni. Grazie ancora per la chiacchierata e ricordati che gli amici sono sempre con te o a tu. Gli amici sono sempre con te. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao Giulio, ci sentiamo alla prossima. Oh, io esco ad apunirle, mamma. Vai a mangiarti la pasta, tanto con tuo figlio, dai. Tranquillo, dai, si risolve tutto, non ti preoccupare. Il capo ha fatto un buon sugo oggi. Gianni, prepara tuo chileggerato. Faccio con 3-4 chile, mangio una patata asciutta. Capo, adesso va fatto stanotte e me la mangio io e Gabriele, ce la mangiamo. Vi siete sovrappopolati. Ho detto che sono 3-4 giorni senza mangiare una patata asciutta. Adesso stasera la facciamo. Eia, già va bene così. Gianni, capito io, tutti in gelato, perché pochi sono? Ho detto che non posso mangiare, tanto la visita l'ho già fatta ieri. Appunto, quindi non lo puoi già mangiare, che poi non lo posso mangiare, ma se si mangia in gelato, se mangia chi va. A proposito, a me Natalino non l'avete mai sentito? No, no, infatti stavo chiedendo stasera a vedere se l'avevano operato, che cosa, perché non l'ho più sentito io, sicuramente l'ho sperato. Va bene, dai, ti devo dire qualche cosa, ti faccio la passa dopo Gianni. Eia, va bene, cappa cappa. Che proprio il telefono sta caricando, lo stacco adesso e me lo porto appresso, dai. Ciao, ciao Antu, tranquillo, mi raccomando. E pensa che c'è Gabriele vicino a te, non pensare all'altro. Tu più là, io te ne parlo, dai, io, ciao, ciao. Sì, allora, un giorno,